известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Sono qui a collaborare con il presidente Obama come ho collaborato col presidente Clinton e col presidente Bush. E se posso augurarmi di poter arrivare anche a un rapporto diretto e personale con il presidente Obama, direi che sarei molto, molto lieto, e questo è qualche cosa che saranno i fatti a dire. Io spero che abbiamo bene cominciato. E dunque c'è stato l'incontro, è stato torrenziale, due ore di meeting tra Silvio Berlusconi e Barack Obama e i rispettivi team di supporto, di specialisti, e la linea di Berlusconi, ribadita dalle stesse parole del primo ministro, è molto chiara, e ormai si è capito anche come in queste occasioni giochi le proprie carte il nostro primo ministro. Il personalismo per lui conta parecchio, lo stabilire un rapporto che vada oltre le stesse istituzioni rappresentate e passi attraverso una forma di cooperazione che potremmo addirittura chiamare confidenziale, che poi può essere fatta di consigli, di piccole dritte, di favori anche inattesi e non dovuti. Ha funzionato con altri e Silvio Berlusconi è piuttosto ottimista possa funzionare anche con Barack Obama, dopo essere stato accolto in modo soddisfacente, aver affrontato l'incontro con tutta la dignità che desiderava gli venisse riconosciuta, ed esserne uscito con anche alcuni risultati, o comunque alcune prime risultanze, diciamo così, sulla base di questo primo contatto. Poi c'è l'altra domanda dall'altra parte: che cosa voleva Barack Obama da questo incontro, invece magari inserito in un percorso più rutinario, no? Per il presidente del paese più importante del mondo. Abbiamo visto un Berlusconi emozionato, sudato, entrare alla Casa Bianca appena prima della stretta di mano con Barack Obama. Invece Barack Obama era appena tornato un quarto d'ora prima da un discorso a Chicago. Insomma, l'incontro con Berlusconi chiudeva una giornata di lavoro, e oggi ne ha tanti altri. Oggi ha il premier coreano da incontrare. Insomma, l'America incontra il mondo. Ma che cosa voleva da questo incontro? Forse voleva far vedere all'Europa, o addirittura al mondo intero, che è capace di cooperare bene con i leader europei, o comunque con un leader europeo che conta, di stabilire rapporti amichevoli e di avviare una reciprocità, e poi al tempo stesso però di poter ribadire di essere il presidente che cambia corso, che chiude Guantanamo, che cerca di trasferire i detenuti e che trova in questo una collaborazione, quindi uno scarto netto e deciso rispetto alla precedente gestione della Casa Bianca. Vediamo se è solo questo o anche molto altro. Lo chiediamo a chi ha seguito in prima persona l'incontro tra Obama e Berlusconi da Washington, ovvero Maurizio Molinari, corrispondente della Stampa dagli Stati Uniti, amico del nostro programma, lo sentiamo spesso e lo salutiamo con grande piacere. Ciao Maurizio. Buon pomeriggio. Aspetta, prima che cominciamo a parlare di Berlusconi, io ho una curiosità: ma è vero che LeBron James è arrivato in sala stampa? Questa sì, è una curiosità personale. È arrivato, e tutti i giornalisti americani naturalmente si sono gettati su di lui alla ricerca di autografi, perché insomma è quasi più popolare dello stesso Barack Obama. E che cosa è venuto a fare? Così, una passeggiata, un bagno di popolarità? Bisogna tenere presente che questi sono i giorni nei quali si è concluso il campionato della NBA, tutti gli occhi sono sui vincitori, Lakers, si parla solamente di questo, e Obama ha indovinato il pronostico. Come aveva fatto con il college basket, insomma, certo. Quindi sono i giorni del grande basket, certo, negli Stati Uniti. Quindi in serata magari faceva due tiri con Obama e intanto è venuto a salutare i giornalisti, mettiamola così, dai. Potrebbe essere, non possiamo escluderlo. Va bene. Senti, allora, no, dicevamo, più o meno si è capito il gioco e la strategia, diciamo così, di approccio di Berlusconi a personaggi per lui nuovi come appunto Barack Obama. Ma dacci un tuo punto di vista sull'altro fronte, ovvero che cosa Barack può aver cercato, eventualmente trovato, in questa presa di contatto con Berlusconi. Obama aveva bisogno di un leader europeo che rompesse il ghiaccio su Guantanamo. Per Obama Guantanamo, la chiusura di Guantanamo oggi è addirittura più importante di inviare le truppe in Afghanistan, perché lui attorno alla chiusura di Guantanamo ha montato l'immagine della nuova America del dopo Bush. Se Bush violava i diritti umani e non rispettava i valori dell'America, io lo faccio, e la dimostrazione è la chiusura di Guantanamo. Il problema è che per chiudere Guantanamo lui ha bisogno degli alleati, perché dei 240 detenuti che ci sono e che lui deve portare, deve far uscire dal supercarcere, almeno 60, secondo i piani americani, devono andare in Europa. Al momento i paesi europei non latitano, e, certo, e quindi gli serviva un alleato che diceva sì, io inizio a prenderli, e Berlusconi l'ha fatto. Dal tuo punto di vista, dall'osservatorio ravvicinato, anche magari cogliendo un po' la temperatura della sala stampa, come è andato questo incontro, e anche diciamo che peso specifico rappresenta in questo momento di mosse sullo scacchiere internazionale di Obama? Com'è andata? Ma ieri i colleghi americani non erano molto interessati a Berlusconi, se non per le vicende dei gossip, certo, gli scandali che sono rimbalzate molto sui giornali americani. Oggi la notizia che l'Italia accetta i tre di Guantanamo da prendere sul proprio territorio è riportata in trafiletti sul Washington Post e New York Times, dove la frase del trafiletto è: il presidente americano annuncia che l'Italia prenderà, non c'è neanche la citazione di Berlusconi. L'importanza specifica politica del nostro paese in questo momento negli Stati Uniti non è alta, e per questo l'incontro per Berlusconi era tutto in salita, anche in ragione appunto del fatto che era stato preceduto da tutte queste indiscrezioni a lui non favorevoli sul piano dell'immagine pubblica. Per questo devo dire che è stato abile nell'individuare sulla vicenda di Guantanamo il chip, la fish che lui poteva mettere sul tavolo per in qualche maniera rompere il ghiaccio con Obama. Senti, il G8, l'imminente G8 italiano in Abruzzo, è stato a tuo parere davvero un argomento di confronto e di premesse, poi magari per un lavoro sostanziale che verrà fatto al momento del vertice, o è stato più che altro così un minuetto? Sì, c'è stata molta formalità su questo, perché non è un mistero per nessuno che per questa amministrazione americana la sede dove si affrontano le questioni finanziarie e la soluzione della crisi del G20. Certo. Berlusconi stesso in qualche maniera ne ha preso atto quando ha detto che il G8 servirà come tappa verso il prossimo G20 che si svolgerà a Pittsburgh a metà settembre. Obama in qualche maniera ha reso omaggio all'organizzatore del G8, alla presidenza, dicendo che la sicurezza alimentare, che è il tema iniziale del summit dell'Aquila, per noi è molto importante, ma insomma si è trattato sostanzialmente di formalismi. La cosa che importava a Obama era Guantanamo, quello che importava a Berlusconi era il rapporto personale con Obama, e c'è stato un do ut des su questo terreno che va anche oltre la formalizzazione della partecipazione alla missione in Afghanistan, questa concessione di un incremento militare, per quanto insomma contenuto. Sì, va oltre, perché la realtà vera è che oggi gli americani non hanno più bisogno di un grande contributo di uomini da parte degli alleati. Certo. Siamo alla vigilia della nuova offensiva d'estate, avranno 70.000 uomini in campo a settembre, 70.000 soldati combattenti degli Stati Uniti sono una potenza di fuoco davvero notevole. E quello che gli serve in Afghanistan sono soprattutto aiuti economici per la ricostruzione civile, che l'Italia è disposta a dare. Va bene, quindi mi sembra di capire, si chiude con un benino che forse sta un po' sotto, forse Maurizio non sai, ma in Italia ci siamo molto entusiasmati, i media italiani sono molto entusiasmati per questo "Great to see you, my friend", con cui Obama ha accolto Berlusconi, ma io ho la sensazione che accolga molta, molta gente con una frase, no, che è di uso comune, qui è stata molto, come dire, usata, diciamo così. Che pensi? Obama è un pragmatico, viene da Chicago, dove la politica è pugilato e conta nei risultati. Certo. Lui sa benissimo che Berlusconi era un amico di Bush, e nei briefing che gli hanno fatto prima gli hanno detto su cosa Berlusconi gli poteva essere utile, e Obama è stato bravo a seguire questo script. Va bene, due professionisti seduti al tavolo in un tardo pomeriggio. Noi ringraziamo molto Maurizio Molinari della Stampa per questo suo contributo. heart, cause each other pain. How we take each other's love without thinking anymore. Getting to give back, isn't it a pity? Some things take so long, but how do I explain? Not to many people see we're all the same, and because of all the tears your eyes can hope to see, surrounds us. Isn't it a pity? E c'è emozione, c'è preoccupazione, c'è anche una straordinaria visualità, rappresentatività in quello che arriva dai televisori di tutto il mondo in queste ore, dalle stazioni di notizie, di giornalismo di ogni parte del mondo, non solo quelle arabe, anche quelle italiane o americane o anglosassoni. Rimandano le immagini che arrivano da Teheran, dove c'è questo carosello al tempo stesso inquietante, però che mantiene al suo interno una almeno fin qui la forza del confronto in una nazione, in una città, in una capitale, all'indomani di una elezione drammatica il cui esito, come sapete, è tutt'altro che stabilito e definito, dal momento che si è deciso di autorizzare un riconteggio dei voti, ma dove due manifestazioni in rappresentanza di quello che attualmente è il vincente, Ahmadinejad, e di quello che è attualmente il perdente, in un certo senso si inseguono, neppure fosse un serpente che si mangia la coda. Abbiamo in diretta Ahmad Rafat, che è un giornalista, portavoce dell'associazione Iniziativa per la Libertà di Espressione in Iran, che è nato a Teheran, di padre iraniano e madre italiana, e sicuramente con gli occhi, con la mente, con i pensieri e con la sua professionalità sta seguendo i fatti di queste ore in Iran. Buon pomeriggio, Ahmad. Buon pomeriggio a voi. Come sentite, sto a Piazza Venezia di Roma, dove è in corso una manifestazione di studenti iraniani venuti da tutta l'Italia, il quale gridano "ridateci il nostro voto", che è lo slogan anche delle manifestazioni di Teheran, e dicono che basta la dittatura adesso, in questo secondo, e chiedono conto dei voti che hanno dato, perché dicono che sono stati fraudati e vogliono giustizia, e stanno davanti alla sede delle Nazioni Unite a chiedere giustizia. Ecco, aiutaci allora anche a capire, Ahmad, un po' meglio che cosa sta succedendo. C'è un riconteggio che è stato autorizzato e che è stato affidato al Consiglio dei Guardiani. Puoi spiegarci che cos'è esattamente il Consiglio dei Guardiani, che supervisionerà questo conteggio, e se è a questo punto un organismo affidabile, perché sennò poi dopo bisognerebbe supervisionare il Consiglio dei Guardiani e non se ne esce più, insomma. Che ci dici? Il Consiglio dei Guardiani è lo stesso organismo che veglia sui sulle elezioni, il quale ammette i candidati, lo stesso che da 400 rotti li ha ridotti a 4 e che l'altro giorno ha detto che le elezioni erano pulite e regolari. Pertanto è come affidare al ladro il proprio portafoglio, chiedere che sia Consiglio Guardiani, non un organismo indipendente, non più neutrale, a riverificare i voti, salvo che le pressioni popolari abbia convinto l'Ayatollah Khamenei, il vero uomo che ha le leve del potere in Iran, a fare una marcia indietro, nel senso a fermare il golpe che è in iniziato questi giorni, un golpe strano, perché normalmente golpe si fa per cambiare regime, qui il regime ha fatto un golpe per mantenersi al potere. Pertanto non c'è grande ottimismo in Iran su questa notizia. La cosa che potrebbe, è la richiesta dei Mousavi e degli altri, è rifare le elezioni, ma questa volta affidandone l'organizzazione, la supervisione a un organismo neutrale, e probabilmente sarebbe anche forse il caso che Nazioni Unite mandi gli osservatori se le elezioni si rifaranno. Degli osservatori, ma degli osservatori possono essere mandati, a tuo parere, a supervisionare una elezione al momento in cui, come dire, esiste un potere sovrano e nulla ancora può autorizzare, no? Apparentemente, no? L'avvento, l'arrivo di osservatori internazionali sarebbe una scelta molto grave e forse anche un precedente su cui riflettere. Che dici? No, molti paesi, nell'Afghanistan un paese sovrano ha accettato gli osservatori, l'autorità nazionale palestinese aveva sovranità sui territori che gestisce ed ha accettato qualche anno fa osservatori nazionali che erano diretti da Carter, pertanto dovrebbe essere ovviamente il governo iraniano a chiederlo, nel senso, accettare che si svolgano delle elezioni vere, pulite, all'interno dello stesso sistema, altrimenti rischiano anche loro, perché il sistema potrebbe crollare se le manifestazioni continuano. L'ultima notizia che ho avuto da sera, mezz'ora fa, è che i seguaci di Mousavi, l'onda verde, ha circondato la televisione, e sappiamo che quando si arriva a circondare la televisione, l'esperienza ci insegna che è un movimento che non ha intenzione di fermarsi davanti a intimidazioni, anche se ieri ci sono stati, si dice, da 7 a 10 morti durante la quella grandiosa manifestazione che è stata fatta a sera. Ecco, ma dammi a questo punto proprio la tua percezione sulla base della tua esperienza e conoscenza anche dello scenario iraniano e di Teheran in particolare, anche se anche altre città in questo momento si stanno muovendo. In realtà la preoccupazione per ciò che potrebbe andare in scena può arrivare a superare l'auspicio di una pressione popolare, cioè esistono pericoli reali di una esplosione di violenza. Ma questo esiste, se continuano a sparare sulla popolazione che pacificamente sta manifestando, certo. Il risultato può essere due: o che le manifestazioni pacifiche si trasformino in una vera e propria ribellione, oppure che il numero di morti sia tale che fermi il movimento. Queste sono le due possibilità se continua questo stato attuale delle cose. Pertanto bisogna vedere cosa decideranno l'onda verde in Iran e i candidati esclusi, defraudati come Mousavi e Karroubi, che oggi in qualche senso hanno la responsabilità di guidare questo movimento loro malgrado. Per concludere, Amada, hai la sensazione che sia un procedimento veloce, accelerato, ovvero la situazione secondo te è destinata a cambiare in tempi molto ravvicinati? Io credo che da qui a venerdì la situazione potrebbe prendere una direzione o una o l'altra tra i due che ho detto, anche perché c'è stato un invito rivolto da alcuni esponenti della Repubblica Islamica che erano coinvolti nelle elezioni, cioè consiglieri dei due candidati, che hanno chiesto alla popolazione di andare alla preghiera di venerdì di questa settimana, che questa settimana sarà guidata dallo stesso Ayatollah Khamenei, cosa che non succedeva da anni. Nei momenti di crisi lui viene di chiedere a lui direttamente, far sentire al popolo, cioè dicono che la gente deve sentire la propria voce al leader e chiedere a lui risposte alle sue richieste. Va bene, grazie per la sua testimonianza, Ahmad Rafati. Vi ricordo che Hossein Mousavi ha lanciato un appello ai sostenitori, ha chiesto che la manifestazione di oggi a tutti i costi risulti calma e pacifica. Lui in prima persona non parteciperà, proprio per non incendiare gli animi e forse per non diventare operativamente un capo popolo in un momento così delicato. Chiede ai suoi sostenitori di agire pacificamente, di non cadere nella trappola dei combattimenti di strada, di conservare la calma. Situazione in rapida evoluzione, continueremo a seguirla. Gently weep. I love you. televisioni internazionali notizie di un precipitoso, diciamo così, avvicinamento a Ahmadinejad Ugyentaw, un incontro è in vista, ne parleremo tra l'altro nella parte finale del programma, perché restiamo invece a un altro incontro che, come sapete tutti, è andato in scena ieri sera, quello tra Barack Obama e Silvio Berlusconi. Stanno uscendo naturalmente commenti di ogni genere, è arrivato anche quello del ministro degli esteri Frattini alla prima visita del Presidente del Consiglio a Washington, alla nuova Casa Bianca, e Frattini dice: sono convinto sia scattata una chimica personale anche di rapporti, dice Frattini, quindi torna a battere su quel tasto della chimica personale perseguito evidentemente ormai in chiave ufficiale da Silvio Berlusconi come propria strategia politica nelle relazioni, in particolare nelle relazioni internazionali. Frattini poi cita anche la concretezza e il pragmatismo di Obama, che avrebbero trovato in Berlusconi le risposte giuste. È interessante anche la rapidità di diffusione di questo mito dell'Obama, diciamo, chiamiamolo così, mito mediatico dell'Obama pragmatico, che sostituisce in blocco quello dell'Obama invece, no, grande chiacchierone, visionario, uno tutto fumo, niente arrosto, col quale abbiamo avuto a che fare per mesi se non per anni. Adesso Obama è sempre e comunque pragmatico, e Berlusconi dovrebbe aver trovato il modo per continuare a legittimare il proprio prestigio nel rinnovare questa sua corsia preferenziale con il nuovo inquilino della Casa Bianca. Abbiamo ora in collegamento Andrea Mancia, che salutiamo affettuosamente, vice direttore di Liberal. Ciao Andrea. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Prima di tutto, per appunto magari fare un breve commento su questa, come dire, ormai rappresentazione che si va consolidando attorno all'incontro, e poi invece per portare un altro passino avanti il discorso su Guantanamo, che, come abbiamo, mi sembra, un po' concordato tutti, alla fine è stato il nodo importante dell'incontro. Ma prima partiamo appunto dall'estetica di questo incontro. Ormai c'è Obama, il pragmatico, e il personalista Berlusconi, va così? Abbastanza. Io sinceramente, conoscendo diciamo il posto in cui Obama è cresciuto politicamente, cioè Chicago, effettivamente non si poteva che pensare che lui fosse un pragmatico in fondo. Però per mesi lo abbiamo accusato del contrario, di essere uno che ce la raccontava. Ma lui gioca un po' su questo filo, cioè diciamo lui è oggettivamente pragmatico e mediaticamente mediaticamente idealista, mettiamola così. Comunque io, diciamo, a proposito dell'incontro, come non mi fidavo molto di chi parlava di un Berlusconi in estrema difficoltà, che avrebbe avuto grossi problemi nell'incontrare Obama nello studio Ovale, di chi parlava appunto di un leader in cerca di una disperata rilegittimazione internazionale, io diciamo prenderei un grano salis anche l'esatto contrario che quello che leggiamo sui giornali oggi. Oggettivamente si sono trovati dei punti d'incontro. Io adesso non mi intendo poco di chimica per sapere se è scattata effettivamente questa scintilla fra i due. Di sicuro Berlusconi, questa è la sua strategia con i leader di tutto il mondo. Sì, comunque diciamo che il fattore scintilla è un po' una novità del 2009, sta prendendo sempre più piede la questione scintilla, prima se ne parlava meno. Senti, invece veniamo all'aspetto Guantanamo, all'accettazione da parte di Roma dei tre detenuti, alle immediate polemiche che si sono sollevate, hanno parlato Maroni, Frattini, c'è anche una discordanza sui punti di vista. Beh, sì, e soprattutto poi c'è un grande interrogativo: chi sono esattamente, non chi sono come identità, ma cosa rappresentano anche per la legge, no? Per la giustizia italiana, questi signori che arriveranno, e soprattutto che uso ne facciamo, che fine fanno? Ecco, questa è una domanda molto interessante a cui non credo che nessuno oggi ancora sia in grado di dare una risposta. A livello, diciamo, di meeting fra i capi di governo c'è stata l'accettazione italiana di accettare questi tre detenuti, di cui non sappiamo né i nomi né i crimini di cui sono stati accusati, non sappiamo dove verranno messi. Maroni ha provato, diciamo, a esprimere qualche perplessità iniziale, ma non mi è sembrato poi nel prosieguo della giornata che gli altri esponenti leghisti di primo piano abbiano dato troppo seguito a questa cosa. Io non credo che sinceramente che la Lega come partito e come membro della coalizione di governo sia in grado di opporsi a una decisione presa a quel livello così alto. Di sicuro sarebbe interessante conoscere i dettagli sull'accordo, se sono stati quantomeno abbozzati. Io non credo però che siano stati neanche abbozzati. E soprattutto se arrivano con al seguito un dossier personale che poi permetta di ragionare sulla loro posizione giuridica, insomma. Questa sarebbe la cosa più importante. Ieri Mario Platero accennava a, in realtà, una condizione che somigliava più a quella degli informatori, a una specie di protezione a cui in un certo senso potevano finire sottoposti questi tre ex detenuti di Guantanamo. Tu personalmente come la vedi? Come giudichi una situazione di questo genere? Questa è una voce che oggettivamente gira. Ed effettivamente a Guantanamo sono presenti non soltanto, diciamo, persone accusate di terrorismo direttamente, ma anche, diciamo, persone dallo status giuridico più ambiguo, che, ecco, forse informatori è il termine che forse non è esattissimo, ma che li può descrivere meglio per far capire diciamo l'ambiguità legale in cui si trovano in questo momento. Di certo, conoscendo l'ordinamento carcerario italiano, quel tipo di detenuti sarebbe molto più facile da gestire per il nostro paese, mentre di fronte a membri, diciamo, conclamati di Al-Qaeda o di network terroristici internazionali, il problema sarebbe estremamente, estremamente più grave. Sì, anche perché c'è questa dichiarazione di Frattini, secondo la quale, in assenza di procedimenti penali nei loro confronti, costoro, che l'Italia si è impegnata ad accogliere, saranno da considerare uomini liberi. È naturale, e potranno circolare addirittura negli altri paesi europei dell'area Schengen, magari quelli che non sono d'accordo con l'accoglimento, salvo che uno o più di questi paesi si oppongano al procedimento. Direi che è un bel rompicapo, no? Non ti sembra? Più che un rompicapo è una prospettiva francamente agghiacciante. Se parliamo di persone accusate di terrorismo e che comunque sono detenute in un carcere di massima sicurezza da più di qualche anno. Perché se parliamo appunto della prima fattispecie, diciamo, la cosa è più gestibile facilmente. Se parliamo invece di questo tipo di persone, io l'idea che possano scorazzare indisturbate nei confini dell'Unione Europea, sinceramente, non ti rallegra. Se valeva un servizio fotografico allo studio Vale, insomma. Però per concludere tutto ciò, come ragionavamo prima anche con Maurizio Molinari, serviva in un certo senso, no, a Barack Obama, alla Casa Bianca, alla sua amministrazione, per far camminare questo treno di Guantanamo, che è un treno che mi sembra vada molto più lento del previsto. Perché, ecco, sta andando più lento del previsto, però in qualche modo comunque si sta muovendo. Qualche apertura da parte dei paesi dell'Unione Europea c'è stata, e oggettivamente Obama, soprattutto per risolvere le frizioni interne anche all'interno della sua coalizione, aveva bisogno che questo treno, seppur lentamente, continuasse a muoversi. Con ieri oggettivamente non si può non dire che il treno non stia continuando a muoversi. Bene, io ringrazio Andrea Mancia del suo contributo. Nel frattempo continuano ad arrivare notizie che in un certo senso buttano benzina sul fuoco riguardo alla questione di Guantanamo. I legali dell'American Civil Liberties Union, una potentissima organizzazione oltreoceano, hanno presentato documenti che proverebbero che il presunto dirigente di Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, ben noto a chi ha seguito la cronaca dell'attacco alle torri, e molti altri detenuti di Al-Qaeda sarebbero stati brutalmente torturati dagli agenti della CIA nel lager di Guantanamo. Mohammed avrebbe raccontato di essere stato variamente seviziato, costretto a parlare e a confessarsi responsabile della ideazione di circa 30 piani terroristici. Un altro fattore, quello delle torture, che si va a intrecciare naturalmente al tentativo di smantellamento, di chiusura di Guantanamo da parte di Barack Obama, e complica ancora di più questo scenario, come vedete, non solo come fronte internazionale, ma destinato a diventare un oggetto di dibattito, di confronto, se non proprio una vera e propria guerra culturale, anche sul fronte interno americano. She moves 360 gradi. News dai punti sensibili del pianeta. E il bello è che a frugare un po' si scopre, no, che di fronte a questo disordine, a questa situazione complessa e in continua evoluzione, il presidente iraniano Ahmadinejad non è a Teheran. Si trova altrove, molto lontano, si trova in Russia, ed esattamente nella città di Yekaterinburg, che tanto è città che conosce molto bene un amico di Jefferson, il nostro Giuliano Noci, ci va spesso per affari. Ebbene, in questa città sperduta negli Urali è in corso il summit del cosiddetto gruppo di Shanghai, che è un cartello, un'alleanza, non so bene come chiamarlo, un'organizzazione che unisce un gruppo importante di paesi dell'area attorno appunto agli Urali e comunque l'Asia centrale. Infatti raduna Russia, Cina, Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan e Kirghizistan. Sono riuscito anche a dirli abbastanza correttamente, questi sono piuttosto complicati. Ebbene, c'è questo vertice annuale molto importante nell'area. Ci è andato in visita anche Ahmadinejad, che ha bellamente ignorato tutte le vicende interne del suo paese, dell'Iran, le proteste di piazza in corso anche in questi minuti. Si è limitato a parlare in generale della crisi di questo inizio di ventunesimo secolo, di millennio. Ha detto: l'epoca degli imperi è finita e non rinascerà. L'ordine capitalista mondiale è ormai costretto a battere in ritirata. In tutto questo però è cosa molto importante per capire poi come si potrebbe muovere eventualmente l'ONU nelle prossime ore di fronte alla crisi iraniana. Ha incassato il saluto caloroso, accogliente di tutti i capi di Stato presenti a Yekaterinburg, quindi praticamente Russia e Cina sono di fatto schierate dalla parte dell'Iran, non è forse questa una sorpresa. C'è una dichiarazione importante anche del vice ministro degli esteri russo Sergei Ryabkov, che ha detto che le vicende elettorali delle elezioni in Iran sono un affare interno del popolo iraniano, quindi in qualche modo Russia e Cina se ne lavano le mani, e questo complica un eventuale fronte che vorrebbe un po' rimettere le cose in ordine diverso a Teheran e in Iran. Oh, per concludere rendiamo omaggio a una iniziativa perlomeno benemerita, presa da un ascoltatore che tra l'altro ci autorizza a diffondere il suo nome e cognome, quindi lo facciamo con piacere. Si chiama Maurizio Morabito, è un abitué di Jefferson. Ebbene, ha talmente gradito l'intervento di ieri di Alberto Negri relativo alla situazione in Iran da averla trascritta per metterla a disposizione di tutti coloro che magari non l'hanno ascoltata o volessero comunque recuperarla via internet. Ci autorizza a diffondere il suo indirizzo, l'indirizzo del suo blog, che è http maurizio morabito tuttoattaccato.wordpress.com maurizio morabito.wordpress.com. vi consiglio, e consiglio anche a Maurizio in questi casi, magari di accendere un semplice link sui nostri siti Facebook, così transitando di là poi si potranno trovare questi materiali. Ci siamo, facciamo in tempo a dare ancora una velocissima, dai. Beh, c'è una notizia che in Cina sta facendo molto scalpore, perché riguarda una donna, si chiama Deng Huaozhou, che due mesi fa, il 10 maggio scorso, anzi un mese fa, lei lavora in un negozio di parrucchiere, ha ucciso l'uomo che ha tentato di stuprarla. L'uomo, che tra l'altro un alto funzionario statale, aveva chiesto dei servizi particolari alla donna, lei si è rifiutata. Ne è nata quindi una colluttazione, il tentativo di violenza, e la donna per legittima difesa ha accoltellato, uccidendolo, l'alto funzionario statale cinese. Da questo ne è nato un processo che è stato seguitissimo dai media cinesi e su internet. Sentenza. Ebbene, la donna l'ha scampata, perché in Cina non è poi così scontato che per legittima difesa si possa essere assolti. È stata giudicata semi inferma di mente e quindi è stata rilasciata. Naturalmente sui blog cinesi si è scatenato il dibattito, tutti tendenzialmente sono comprensibilmente a favore della donna salvata comunque dalla pena di morte. E questo è Jefferson 2, l'arte della svolta, puntata di oggi. Stefano Pistolini, Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti, Pietro Lacorte, la mail jefferson2@radio24.it, su Facebook redazione Jefferson 2 o Jefferson 2 Radio 24. Express Yourself, la puntata di oggi va naturalmente in replica a mezzanotte, la trovate in podcast sul sito della radio, mentre noi vi aspettiamo puntualmente alle 4 e qualche minuto domani qui su Radio 24. Mi raccomando, ci sentiamo.